Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it ed il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, giornale per il quale sono inviato. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri, oppure lo contattate digitando robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Di cosa tratto? Tratto dei temi a me cari ormai da 4 anni: criminalità organizzata e illegalità. Allora, oggi parliamo di una cosa molto bella, molto interessante, perché è un osservatorio che fa in modo, sorrido perché è una delle iniziative più belle che il nuovo anno potesse portarci, fa in modo che gli abusi per quanto riguarda il racket e l'usura nella martoriata e splendida terra di Sicilia possono avere un punto di vista privilegiato, quello dell'università. E sì, perché l'Università di Palermo, insieme a Confindustria Sicilia, sapete benissimo che il suo presidente Ivano Lobello da anni si batte contro la pervasività di Cosa Nostra, hanno istituito un osservatorio sui fenomeni del racket e sui fenomeni dell'usura. E ho il piacere di parlare di questa iniziativa positiva con Andrea Vecchio. Per chi non lo sapesse, Andrea Vecchio è un imprenditore siciliano, presidente dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori di Catania. Ebbene, quest'uomo ha avuto il coraggio ormai da tempo di denunciare e far arrestare estorsori del clan Santa Paola. Quindi stiamo parlando del gotha della mafia, sicuramente in provincia di Catania. Perché li ha fatti arrestare? Perché quest'uomo onesto, questo imprenditore edile, aveva rifiutato di pagare il pizzo. È una persona che tuttora, mentre noi stiamo parlando, vive sotto scorta anche per la nostra vigliaccheria e per la vigliaccheria di chi non ha il coraggio di fare fino in fondo il proprio dovere, e che continua imperterrito nelle sue denunce. Buongiorno Vecchio. Buongiorno. Allora, come valuta questo osservatorio promosso dall'Università di Palermo e da Confindustria Sicilia? Sicuramente in maniera molto positiva, e poi speriamo che abbiano in programma non solo di studiare il percorso, ma di studiarne anche le ragioni, le origini, le radici principalmente. Ecco, lei prima stava dicendo fuori onda che si tratta di due fenomeni nettamente distinti e separati. Qual è, se possiamo fare una classifica, come dire, che lascia tutto il tempo che trova, e lo dico subito, a suo giudizio in questo momento il più pericoloso in Italia? Ma io credo che sia il racket delle estorsioni, perché nel racket delle estorsioni tu sei coinvolto, sei obbligato ad entrarci senza che ci sia la tua partecipazione, la tua volontà. Nel racket dell'usura in minima parte o in massima parte, dipende dai casi, interviene la tua volontà, con la tua maniera di amministrare, di gestire, a volte in modo superiore alle tue capacità. Certo. Questi sono due aspetti completamente diversi, non si possono rendere simili i due fenomeni. Assolutamente. Anche se poi il risultato finale sfocia nella violenza, sfocia nell'usurpazione di diritti, può sembrare simile, ma la origine è completamente diversa. Ecco, perché io volevo chiederle una cosa. Lei faceva in maniera sacrosanta riferimento alle radici di questi fenomeni. Io leggo in un'intervista che lei ha rilasciato alla mia collega Serena Uccello il 4 dicembre 2008 al Sole 24 Ore, che dei risultati si stanno vedendo ad Agrigento, si stanno vedendo a Caltanissetta. Io oserei dire, ma lei sicuramente sarà d'accordo, che Palermo si sta svegliando, ma lei dice ci sono dei territori come Catania, quindi la sua provincia, Siracusa, Ragusa, in cui non sta cambiando nulla e dai politici chiacchiere e nulla più. Ecco, questo perché accade? Ah, questo bisogna dire all'università di studiarlo, io non riesco a capirlo. Io le posso dire che ritengo, penso che non sia io l'unico imprenditore al quale hanno tentato di estorcere del denaro in provincia di Catania. Immagino che ce ne siano tanti. Assolutamente. Forse la mia vicenda ha suscitato più scalpore ed è assurda agli onori della cronaca per il periodo nel quale si è verificata, per la continuità degli attacchi, per la maniera con la quale ho reagito io. Saranno tanti motivi che hanno fatto, diciamo, diventare un caso nazionale. Ecco, e dobbiamo aggiungere anche a supporto di quello che lei dice anche delle riflessioni che ci vengono indotte da un articolo che abbiamo letto sotto Natale della Repubblica nelle pagine nazionali, in cui si diceva che a Palermo, mentre la Palermo si preparava e si prepara alla continuazione delle feste magari un po' più prolungate, gli estorsori della mafia di Cosa Nostra passavano anche due volte al giorno presso i negozi, le attività commerciali per riscuotere il pizzo, al punto tale che le organizzazioni anti-racket e anti-usura del luogo addirittura stanno diffondendo una cartina alternativa dei commercianti che si ribellano al pizzo, e questa la trovo un'iniziativa splendida. Mi raccomando, cerchiamo, quando andiamo in quella città, a Palermo, di capire quali sono i negozi che si ribellano con gli atti e con i fatti, oltre che con le chiacchiere, al pizzo e al racket. Le chiedo questo, vecchio. Questa è stata un'iniziativa geniale da parte dei ragazzi di Addio Pizzo. Di Addio Pizzo, tanto ecco, lei ha fatto bene. Addiopizzo.it è il sito, mi raccomando, andatelo a visitare. Prego, vecchio. Sì, sì, i ragazzi di Addio Pizzo sostengono, e credo giustamente dà ragione, che bisogna cercare di isolare questi fenomeni, e una delle maniere per poterlo fare è favorire il consumo, la vendita, il commercio di quei negozi che chiaramente si ribellano, e cercando di boicottare, di non andare a comprare in quei negozi, in quegli esercizi che o palesemente o diciamo in maniera sommessa sono ancora sotto lo schiaffo esattamente della mafia. Intanto io mi correggo, il sito è addiopizzo.org, avevo avuto per un momento il dubbio, grazie alla mia assistente Laura che mi ha corretto prontamente. Visto che lei citava i ragazzi di Addio Pizzo e ne abbiamo ricordato il sito, ricordiamo anche i prodotti di Libera. Libera la conoscete tutti, è l'associazione fondata da Don Ciotti. Ebbene, nelle catene alimentari, mi viene in mente la Coop, ma credo anche altri, ci sono due punti vendita, uno a Napoli e uno a Roma. Ci sono delle splendide cooperative che vendono i prodotti che traggono origine dai terreni confiscati alla mafia. Pensate che bella cosa, mangiare dei prodotti che sono stati coltivati sui campi sottratti a Totò Riina piuttosto che alle famiglie di 'Ndrangheta calabrese o di camorra campana, ma fino a Lazio i terreni sono stati sequestrati, e ne abbiamo parlato spesso nelle mie trasmissioni. Vecchio, vorrei fare un'altra domanda. Lei ad un certo punto, poco più di un mese fa, denunciò: se va avanti così sarò costretto a licenziare i miei dipendenti, a fare in modo o di lasciare il paese o di licenziare i dipendenti, perché purtroppo gli attacchi continuano. È chiaro che lei non è soltanto un simbolo di legalità, ma è anche un simbolo che i catanesi, voglio dire il clan dei catanesi, il clan mafioso dei catanesi di Santa Paola e compagni, vogliono colpire. A che punto è oggi il suo sfogo e la sua confessione ai media di quello che le è accaduto circa un mese fa? Ma un mese fa il mio sfogo traeva origine da un ennesimo furto in un cantiere a Siracusa. Nello spazio di 5 mesi sono rubati 8 escavatori, uno l'abbiamo ritrovato, 7 non si sono potuti più ritrovare. Sono delle macchine che hanno un valore medio che va da 70 a 100.000 euro. E lei capisce che non solo il danno economico per la perdita del mezzo, ma il disservizio, l'aggravio di costi, le disfunzioni che nel cantiere si creano, certo, i ritardi nella esecuzione delle opere. Tutto questo ha un costo che non è giusto che sopporti soltanto lei. Ma questo ha un costo economico, sociale, un costo funzionale. Purtroppo in questo paese. Questa è la situazione, è per questo che benvengono iniziative come quella dell'osservatorio promosso dall'Università di Palermo e da Confindustria Sicilia. Io ringrazio il mio ospite Andrea Vecchio, che sicuramente continueremo a sentire nei prossimi mesi e ci accompagnerà nelle nostre puntate. Io dico grazie regia Giorgio Matei, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.